in diretta su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno, buongiorno cari amici di CRM Happy Wake Up, qui con voi Patrizia Curreri questa mattina di lunedì 25 marzo 2013 in vostra compagnia, ma soprattutto in compagnia della buona musica, la musica di CRM Happy Radio che quest'oggi vi farà svegliare con sempre come al solito con il sorriso, anche se fuori c'è vento, anche se c'è un sole stupendo e c'è un po' di frescolino. Noi qui vi adagiamo nella bella musica, nella musica divertente, anche è accompagnata da notizie spiritose, ma oggi abbiamo una novità. Oggi non sarò sola qua in studio, ci sarà con me la vicepresidente dell'Officina Culturale di Costanza d'Altavilla, nonché organizzatrice di un evento particolare di cui ci parlerà proprio oggi, Maria Rosaria Barranco. Quindi state in ascolto con noi, che presto appunto sarà qua a farmi compagnia e parleremo un po' di questo evento che vedrà Cefalù protagonista. E quindi forse avete letto già qualcosa nei nostri giornali telematici, nei nostri blog telematici di Cefalù, però qua ne parleremo con più chiarezza e approfondimento. E poi se volete fare qualche domanda, ecco, siamo sempre qui disposti a rispondervi. Potete inviare un sms al 335 56 37 251 o telefonare allo 0921 92 32 92, oppure potete seguirci anche su internet al sito www.crmhappyradio.it. È una cosa anche importantissima: se volete diventare fan della nostra pagina Facebook, potete cercare tra i vostri contatti CRM Happy Radio e cliccate mi piace. Ma intanto, come dicevo, la musica qua fa da protagonista, e quindi adesso ci ascoltiamo Pink con Perfect. Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, displaced, misunderstood, misknowing it's so good. It did. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you search no more. Don't tell me it's not era Bryan Adams, bellissima canzone, colonna sonora di Robin Hood, il famosissimo film che è andato in onda, non mi ricordo il periodo, appunto anni 90, con non mi ricordo più, va bene, comunque era questa bellissima canzone appunto per svegliarci un po' con un certo romanticismo, con una certa dolcezza, con tanto amore appunto per iniziare questo fine settimana abbastanza arduo, perché naturalmente è la settimana santa, dobbiamo ricordarlo. E quindi c'è chi si prepara per le funzioni appunto della in chiesa, ma anche chi sta preparando, già sta fantasticando per cosa cucinare a Pasqua e cosa fare a Pasquetta. Ecco, sempre appunto queste feste, queste grandi feste che arrivano, portano tanto stress, soprattutto nel cosa preparare, perché più di feste religiose sembrano soprattutto mangiate, abbuffate a non finire, è consumismo, questo lo sottolineiamo sempre. Inoltre ricordiamo i nostri numeri di telefono per poter interagire con me. Potete inviare un sms al 335 56 37 251 o telefonare allo 0921 92 32 92, non solo per richiedere la vostra musica, anche se quello è molto gradito, ma anche per poter interagire magari e darci qualche curiosità, qualche notizia anche voi curiosa, e magari accogliere in un diverso modo questa bellissima stagione della primavera che sta iniziando, astronomicamente il 20 marzo ed è ancora fa un po' di bizze, come si può dire in Toscana, perché appunto da ieri che c'era un bellissimo caldo, ad oggi che invece c'è vento e freddo. E infatti la primavera però è sempre vista come sinonimo di belle giornate, di tepore, di rinascita della natura. Ecco, questa è la cosa più importante, tutto rinasce e tutto si risveglia, e il naso è l'organo che più entra in azione per apprezzarla e goderla al meglio. Infatti la primavera è odorosa di erba tagliata, di rose, di fiori, novelli, e il suo unico neo riguarda appunto chi soffre di allergia e associa l'arrivo della bella stagione a qualche fastidio legato a starnuti e naso che cola. Ma quello che hanno sottolineato alcuni studiosi appunto facendo sondaggi, interviste, è che chi si fa a primavera quando le giornate cominciano ad allungarsi e la natura si risveglia? Secondo l'indagine, il primo impulso, pensate, è quello di andare a fare shopping. Questo è il 45% di risposte. Dopo aver finalmente buttato via ombrelli e cappotti e le fredde giornate invernali, appunto, gli italiani preferiscono andare per la prima cosa a fare shopping. Andare per negozi quando il tempo è freddo e piovoso è infatti considerato demoralizzante da quasi il 50% del campione. Ed acquisti finiti si esce con gli amici. E infatti queste erano risposte il 32%, magari al parco per un picnic. Se si deve lavorare, in ogni caso non importa, il sole si apprezza sempre, come dice il 30% degli intervistati. Il bel tempo aiuta soprattutto a fare sport, cioè il 24%, mentre il 10% del campione ha dichiarato di non essere minimamente condizionato dal meteo nell'organizzazione delle proprie giornate. Quindi c'è caldo, fa freddo, non si sa quello che c'è fuori, però loro, le persone, sono alcuni appunto il 10% degli italiani che invece non si preoccupa minimamente se oggi hai voglia di fare sport e fuori piove, lo fa, se c'è bel sole e magari vuole stare a casa, lo fa, e quindi non si fa condizionare da questi elementi. E quindi nel mentre mi ritorna in mente il protagonista di Robin Hood, appunto con la colonna sonora di Bryan Adams, che è appunto Kevin Costner. È chi non se lo ricorda questo sex symbol degli anni 90, che adesso è naturalmente un po' invecchiato, però rimane sempre un uomo affascinante, come lo è anche Biagio Antonacci. Continuiamo un po' a romanticizzarci un poco questa mattina di lunedì 25 marzo 2013, e lo facciamo con le bellissime canzoni di questo nostro cantante italiano di cui siamo molto orgogliosi, con Biagio Antonacci, insieme Finire. Se ti va, vieni a prendermi nell'hotel che costeggia il sole, e io confino ad Orco Blu, l'ovest è una parte mia, ho una mano ad est e l'altra a sud. Se mi vuoi, vengo a nascere nella tua testa libera, io non mendico attenzione, io sarei conquistatore, io vorrei che tu scegliessi me. Migliore vengo a vendermi al tuo onore che difendi ancora. Lacrima mi liberi, lacrima si libera e straripa dalle rughe mie. E se vuoi, sempre se lo vuoi, perché sai, non ti spingo a niente. E fai di me la tua virtù, fai di me qualcosa in più. Scegli me tra i tanti, scegli me. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. She shines just like a star, and I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here. I still hear her loud and clear, like she's right there in my ear, telling me that she wants to own me, to control. questo era Neyo con Closer a CRM Happy Wake Up con me, con Patrizia Curreri. Oggi appunto lunedì, inizio settimana, 25 marzo 2013, è l'ultima settimana di marzo, dopodiché c'è tutto aprile, dolce dormire. Però si avvicina naturalmente, come ho detto poc'anzi, la primavera, cioè già siamo in primavera, ma si avvicina appunto l'estate, che è in preparazione dell'estate. Ebbene, molti italiani, come abbiamo letto prima appunto da alcuni sondaggi, preferisce fare shopping a primavera e prepararsi appunto il guardaroba per l'estate, un'estate che si presenta, che si prepara coloratissima. E le proposte appunto moda per il guardaroba dell'estate sono all'insegna dell'allegria e delle tinte decise, come antidoto alla crisi e al malumore che ci ha accompagnati in questo lungo inverno. Per questo appunto molti stilisti si sono ben preparati a presentare dei vestiti, degli abiti veramente coloratissimi e vivaci. E per esempio c'è Dolce & Gabbana, che evocano il colore della Sicilia, tra foulard e righe che circondano e ricordano le sdraio da spiaggia e dettagli dei carretti siciliani che si trasformano in decori per le zeppe, con la raffia che si unisce a coralli e ricami per i tubini, gli spolverini e taglier, oppure lavorata all'uncinetto per i sandaletti multicolori. Poi abbiamo Louis Vuitton, che si ispira anch'esso alla Sicilia, appunto è al centro di quest'estate 2013, appunto con colori rubati al limoneto dell'isola, con pantaloni, abiti e taglier tinti di giallo e verde. Quindi tanti sono i colori, non c'è un colore determinante. Poi abbiamo Gucci, invece esplora tutta la palette offerta dalle tinte vitaminiche, con una collezione svolazzante di Voilà, uno dei vezzi più tipici dell'estate in arrivo, pronti a animare sottane e magliette. Gli abiti del blues si tingono di rosso fragola sull'abito stretto in vita e fermo sopra il ginocchio, ora di arancio in quello lungo fino ai piedi e accollato, ora del blu delle more su mini abiti da abbinare a pantaloni morbidi. Ma un altro colore molto presente nella bella stagione 2013 è il rosa pesca, scelto tra gli altri da Bottega Veneta Nina Ricci, quindi per i suoi trench, ma vanno forte tutte le sfumature del rosa, come quella tipica della buccia della polpa dei litici, che sono tipo un frutto orientale poco più grande di una ciliegia, della buccia quasi dura. E quindi va di moda questo colore, andando a cercare litici, scritto appunto litici, che sono anche buonissimi, li ho assaggiati, sono veramente buoni. Poi abbiamo Ermanno Scervino, dove i suoi colori sono decisi dal becco d'oca al viola, dal giallo al corallo e fucsia, anche mixati insieme. E quindi non vi preoccupate, che se ancora appunto c'è cattivo tempo e il maltempo, prima o poi ci lascerà, allora possiamo dare sfogo a questo bellissimo guardaroba di buon umore e di colori e di tante fantasie, ecco. Soprattutto mi piace quella dei carretti siciliani nelle zeppe, bellissimo. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over you, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. I'm

come una stella di Broadway, New York, New York, è una scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di... Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh. Questa era la bellissima voce di Alicia Keys, Girl on Fire, CRM, Happy Wake Up. Bellissima, una bellissima voce, una bellissima canzone, e veramente, infatti la ripropongo sempre perché veramente è uno spettacolo. E la ripropongo sempre di svegliarci, infatti le mie canzoni sono proprio dedicate a coloro che si stanno ora svegliando, che devono comunque fare le proprie mansioni domestiche e lavorative, non hanno tantissima voglia, e appunto perché l'ormone del risveglio è un po' a livello un po' basso. Ecco, l'ormone che ci sveglia è chiamato orexina o ipocretina, non è una parolaccia, dico quello che sto leggendo, e che regola la nostra felicità. L'assenza di questa sostanza antisonno potrebbe essere legata all'insorgenza della depressione. La scoperta è della Los Angeles University ed è stata pubblicata su Nature Communications. È emerso che il livello di ipocretina sale quando facciamo esperienze positive, e quando ci sentiamo felici mentre scende in situazioni stressanti e deprimenti. Cos'è l'orexina? È appunto l'ormone della veglia. È stato scoperto poco più di 10 anni fa in relazione alla narcolessia, malattia invalidante che provoca in chi ne soffre momenti improvvisi di sonno profondo, a qualunque ora del giorno. I pazienti che non producono l'ormone sono molto più a rischio di depressione rispetto alla popolazione generale. Inoltre, già in studi precedenti su cani si è osservato che la concentrazione di orexina sale quando l'animale fa qualcosa di piacevole, come una corsa nel parco, e scende invece quando fa qualcosa di stressante, come camminare sul tapis roulant. E peraltro i malati di narcolessia soffrono anche di un altro disturbo, la cataplessia, ovvero una condizione che causa una perdita del tono muscolare e svenimento, solitamente provocati da forti emozioni come riso e gioia. E pertanto, appunto, dallo studio effettuato, i ricercatori hanno studiato i flussi cerebrali di orexina durante le 24 ore in un gruppo di soggetti e ha così rivelato che l'ormone non solo aumenta al risveglio e si riduce all'ora di andare a dormire, ma che la sua concentrazione si impenna quando il soggetto fa esperienza di qualcosa di gioioso e diminuisce quando è stressato o prova dolore. Quindi noi, il nostro scopo è quello di provare, di farvi provare appunto un po' di gioia e di divertimento, e quindi per far salire quest'ormone, quindi questa orexina o ipocretina, dobbiamo dire così perché appunto si dice anche così. Quindi CRM più Wake Up è fatto anche per questo, quindi facciamo salire questa orexina così ci svegliamo un po'. Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. vita, il sangue per il mio paese, e mi ritrovo a non tirare fine mese, in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no. Emma con Non è l'inferno, e sembra non essere l'inferno neanche per Nicolas Cage, che di crisi non ne parla assolutamente. Ricordate questo attore appunto famosissimo, che appunto sta girando decine di film, tra i quali appunto Il mistero dei Templari, Next, e adesso invece è protagonista come doppiatore nei Cruz, quindi cartone animato che appunto sta uscendo nelle sale cinematografiche in questi giorni. Ma nonostante quindi fosse è famoso appunto per queste decine di film che è girato e sta incassando milioni di dollari e vinto pure un premio Oscar, Nicolas Cage continua a essere uno degli attori più stravaganti e chiacchierati di Hollywood per le spese folli che fa. Guardando appunto la lista, ora leggendo poco fa la lista di quelle delle spese, di ciò che ha comprato, appunto sembra che lui non si preoccupi tantissimo di questa crisi economica che sta dilagando in tutto il mondo, anzi l'affronta e l'affronta un po', ci fa anche da rivale, nel senso stile, contro questa crisi, appunto comprando la qualunque. Infatti ha comprato una Lamborghini da $300,000 dallo scià di Persia, si è fatto fare una tomba a forma di piramide alta quasi 10 metri a New Orleans, ha un parco macchine da infarto, 9 Rolls Royce, da affiancare una decina di altre auto d'epoca. Poi aveva, siccome ha discendenti tedeschi, che ha già pensato benissimo di comprarsi un castello medievale in Germania. Poi ha acquistato e venduto venduto una Midford Castle di Somerset, poi possiede due yacht e un jet privato, ha una casa nel quartiere francese della Louisiana. Poi che cos'ha? Ah, ha un'altra villa a Bel Air che è appartenuta a Tom Jones e Dean Martin e altre 14 residenze personali. Poi ancora non abbiamo finito la lista di quello che ha comprato o ha Nicolas Cage. Negli ultimi tempi ha comprato 12 gioielli costosi e 47 pezzi tra opere d'arte ed oggetti esotici. Ha un'isola privata alle Bahamas pagata 3 milioni di dollari nel 2006. Poi ha comprato per 276 milioni di dollari il cranio di un dinosauro. Poi ha posseduto la più invidiata collezione di fumetti mai realizzata. Ha comprato il primo storico fumetto di Superman nel 1997 per 110 mila dollari, per poi rivenderlo nel 2011 a 2.160.000 dollari. Poi ha una collezione infine di teste di pigmei in bella mostra nella propria abitazione e ancora possiede una miriade di animali esotici, tra i quali lucertole, due cobra albini, squali, un polipo e un coccodrillo. Veramente una lista proprio stravagante, stravagantissima. E infatti il suo ex commercialista, con cui troncò il rapporto di collaborazione a causa della batosta fiscale naturalmente arrivata dall'agenzia delle entrate USA, dichiarò che Cage viveva ben al di sopra delle proprie possibilità. Qualcuno ancora dubbi al riguardo, certo, perché lui continua a comprare, a fantasticare su ciò che può comprare o no. E non so dove mette tutte queste cose, soprattutto appunto lo squalo, mi domando, il coccodrillo, dove ce li avrà? Quindi non lo so. Ma comunque noi intanto diamo nuovamente i nostri numeri di telefono per poter interagire con noi. Magari volete, non so, volete trovare l'anima gemella di Nicolas Cage, dato che ha tutte queste meraviglie. E potete inviare un sms al 335-56-37-251, telefonare allo 0921-92-32-92. E adesso ci ascoltiamo i Coldplay con Rihanna, Princess of China. Once upon a time, somebody ran away, saying as fast as I can, I got to go, I got to go. Once upon a time, we fell apart, you're holding in your hands the two halves of my heart. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. Questa era Rihanna con Diamond, CRM, Happy Wake Up. Oggi appunto l'inizio della settimana, oggi lunedì 25 marzo, per chi si fosse collegato adesso con la nostra radio. E appunto si sa che il lunedì si fa sempre difficoltà ad alzarsi e questo appunto noi con la nostra musica cerchiamo di farvi svegliare con un certo ottimismo per fare salire l'orexina, quello, l'ormone del risveglio. Ma passiamo da notizie di salute, di curiosità, a notizie invece di arte. E appunto un'artista israeliana che si è fatta una fama per il suo stile particolare. La sua specializzazione è infatti quella che le definisce arte riciclata. I suoi oggetti preferiti sono i cani, che ricrea impiegando un materiale decisamente insolito. Pensate, le catene di bicicletta. L'artista diplomata alla Parsons School of Design di New York lavorava precedentemente nel settore della moda, in particolare disegnava abiti da sposa, quindi già un lavoro veramente decisamente stimolante, ma invece lei e questo lavoro gli creava e limitava la sua creatività, e ha deciso di dedicarsi all'arte pura, unita con una passione per l'ambiente e il riciclo. Ha portato quindi alla nascita di opere decisamente insolite e curiose. Quindi infatti nelle immagini che si possono vedere sul web ci sono vari tipi di cani, da barboncini a altri tipi di razze, dove appunto è visibile quindi queste catene di biciclette, che veramente danno un effetto particolare, decisamente insolito, impensabile potremmo dire. Quanto possa arrivare l'arte, quanto può arrivare la nostra creatività, la nostra fantasia, è decisamente veramente inimmaginabile. Ma noi continuiamo con la nostra musica, e questi sono i Dada Life. Come into your heart when you're high on love. We come into your mind when you feel the rush. We come into your soul when your God is gone. We come into your smile when you want some fun. We come into your feet when you jump at night. We come into your hands when you wanna fight. We come into your legs when you wanna run. We come into your smile when you want some fun. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Amo io tonight. Got a feeling that I can't deny. Everything about you gets me high. Girl, I want this for the rest of my life. I'm all yours. And she don't play, I'm ready for it though. Throw it my way. Heart torn and I doubt you can save it. It's okay, it's been like that since I was a baby. Thoughts deep, scuba. My mind's free, opposite of Cuba. Take me for my money or my fame. Papa, don't try, I see right through ya. Four lawsuits, 1 year. Two down, two to go. Fame expensive, yeah. Good thing, I know. I was built for the war. I was built to be all yours. Abuelita's a rebel, my mother's a fighter. Diaz and G and my sister's a rider. Tonight, got a feeling that I can't deny. Everything about you gets me high. Girl, I want this for the rest of my life. And celebrate tonight, and together we gon' touch the sky. Everything about you gets me high. for you, girl. The truth is in store for you, we girl. We gon' fly, yeah, and we gon' soar, yeah. Tonight is ours, yeah, and I'm all yours, yeah. Yeah, I'm all yours, yeah. Yeah, I'm all yours, yeah. Yeah, I'm all yours, yeah. Yeah, I'm all yours, yours, yours, yours. I'm all continua la nostra mattinata di musica, musica allegra, musica spensierata, musica che ci fa svegliare. E questo era appunto Jensen, All I Am All Yours, con un Pitbull. E come vi dicevo già all'inizio della mia puntata, ecco, non sono sola in studio, almeno già è arrivata adesso Maria Rosaria Barranco a parlarci di questo bellissimo evento che vede coinvolta Cefalù in prima persona. Infatti ora do la parola a lei, può parlare tranquillamente, abbiamo tanto tempo a disposizione per parlarci di questa bellissima, di questo bellissimo evento. Quindi a lei la parola e ciao, ciao Maria Rosaria, dimmi. Ciao Patrizia, salve a tutti i radioascoltatori. Stamattina qui Patrizia mi ha coinvolto a parlarvi di questo splendido evento che ho organizzato a Cefalù, coinvolta dal comune di Cefalù, perché hanno contattato il comune. Ringrazio il sindaco per avermi dato questo incarico. Praticamente già da domani mattina si registreranno le prime riprese della trasmissione Mezzogiorno in Famiglia. Mezzogiorno in Famiglia che andrà in onda il 30 e il 31 di marzo su Rai 2. Faremo le prime registrazioni a Cefalù domani dalle 9 di mattina fino al tardo pomeriggio e mercoledì saremo invece in partenza, ci sarà la squadra che invece registrerà direttamente a Roma negli studi di Rai 2 in via Teulada. Volevo intanto ringraziare tutti coloro che mi hanno dato ascolto e affiancato in questa avventura, questa meravigliosa avventura che ho voluto intraprendere soprattutto per la città di Cefalù che sicuramente ha bisogno di tanti eventi del genere, perché deve essere di nuovo rilanciata, deve essere rivalutata e bisogna fare promozione turistica in tutti i settori e in tutte le direzioni. Mezzogiorno in Famiglia è una bella vetrina perché viene pubblicizzato vengono pubblicizzati i monumenti di Cefalù, viene pubblicizzata la cittadina, quindi ho voluto fare organizzare questo evento soprattutto per questo, collaborata da tanti ragazzi che vi dirò adesso i nomi, di cui vi dirò i nomi: Giovanni Messina, che è il capogruppo, la Martina Chetti, Moscato Luca, Castiglia Simone, Cesare Serena, Amalaina e Maria Elena, Messina Andrea, Macaluso Gandolfo, Di Gangi Maria Elena e Curreri Patrizia, la nostra presentatrice, anche lei coinvolta in questa manifestazione. Questo evento, scusate. Domani ci saranno dei giochi in cui parteciperanno diverse associazioni di Cefalù, le associazioni sportive che mi hanno dato anche una mano e quindi mi hanno collaborato: l'Athletic Center Cefalù, l'Agari Coreo, il presidente dell'associazione di calcio Salvo Cimino, la palestra di Bruno Leone. Quindi voglio ringraziare tutti veramente per la disponibilità e per la collaborazione e molti altri, perché ci saranno pure dei collegamenti dove faremo vedere come si fanno le pecorelle di Pasqua, e di questo voglio ringraziare Giuseppe della pasticceria Tentazioni. Ci saranno altri collegamenti dove faremo vedere degli oggetti che aveva già esposto visto l'associazione Vecchia Soffitta per Natale, ci sarà anche un collegamento all'interno della cattedrale, un altro in piazza, di questo ho delegato l'architetto Tania Culotta e Barbara De Gaetani per quanto riguarda invece il collegamento all'interno della cattedrale. Io spero di essere stata abbastanza esaustiva nel insomma spiegarvi un po' come di quello che verrà a Cefalù. Io vi prego di accorrere numerosi in piazza domani, perché abbiamo bisogno di tanto pubblico, di tanto tifo per sostenere la squadra, e speriamo che il comune di Cefalù possa tenere alto sempre il nome che ormai insomma come diceva lui è conosciuto in tutto il mondo. Io ho avuto modo di praticamente di rappresentare il comune anche alla BIT di Milano, perché sono stata coinvolta anche nell'organizzare lo stand, e praticamente tutti quelli che si fermavano conoscevano tutti Cefalù, come bello. Sentivano e vedevano Cefalù scritto, ah Cefalù, che bella Cefalù. Quindi io voglio lanciare un messaggio che praticamente deve coinvolgere tutti i cittadini di Cefalù a dare un piccolo contributo perché con la collaborazione di tutti e con il contributo di tutti possiamo ancora portare avanti questo nome che è sempre vivo nella mente di tutte le persone che di tutti i cittadini del mondo, perché Cefalù e la Sicilia fa parte veramente del mondo ed è come diceva Goethe, è nella Sicilia che praticamente si trova il fulcro e si trova la spiegazione di tutto. Io vi ringrazio e speriamo di risentirci dopo il ritorno da Roma con una bellissima vittoria del comune di Cefalù. Che responsabilità che ci hai affidato a tutti, ecco, dobbiamo fare una bella figura. E ricordiamo quindi l'appuntamento, allora domani dalle 9 in poi, quindi a Piazza Duomo, dove appunto ci sarà la diretta, e poi il 30 e il 31 dalle 11 circa, mi sembra che il programma inizi appunto su Rai 2, quindi ci potete vedere e potete fare il tifo, anche se già abbiamo fatto tutto, l'abbiamo fatto, però fate il tifo per noi, che abbiamo una bella responsabilità di portare appunto alto il nome di Cefalù. Quindi ringrazio Maria Rosaria Barranco per questa partecipazione, appunto per aver pubblicizzato appunto questo evento e per essersi prodigata appunto a portare avanti questo progetto con tanta pazienza e con tanta volontà. E quindi noi continuiamo, perché appunto noi dobbiamo anche pubblicizzare altre cose, anche perché la pubblicità muove tutto. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. You're the perfect part of me. You're the oxygen I breathe. You're a superstar, a work of art. It's electricity. You're a yes in a world of no's. You're the Beatles to my Stones. It's a sweet romance, a spotlight dance. Girl, you shake me into my bones. it's not complex. It's the makeup sex. Don't we always get that right? Well, they don't make a pill that can give me the thrill when you look at me. And then I hear you say, questa era Cupid con Daniel Potter a CRM Happy Wake Up. E dopo appunto abbiamo parlato anche di questa partecipazione appunto di Cefalù a Mezzogiorno in Famiglia, adesso continuiamo un po' anche con le nostre notizie, quello che comunque adesso avverrà tra il 30 e il 31 oltre, quindi mi raccomando, segnate nella vostra agendina appunto l'appuntamento su Rai 2 dalle 11 e in poi, appunto collegatevi su Rai 2 che ci sarà Cefalù che parteciperà appunto alla trasmissione Mezzogiorno in Famiglia. La notte dovete cambiare l'orario, appunto entrerà in vigore l'ora legale e infatti la lancetta dobbiamo metterla avanti di un'ora. Domenica, sia sabato, quindi sabato c'è la veglia pasquale, quindi domenica è pure Pasqua, ci sono tante cose che dovete fare in questo fine settimana, tra cui appunto anche cucinare, no? Quindi pensare anche a cosa cucinare, e quindi si mette un'ora davanti e spesso appunto si dice che questi cambi di ora, quindi dall'ora solare all'ora legale, spesso provocano tanti disturbi, soprattutto nel sonno, però secondo un professore, Francesco Peverini, direttore scientifico della Fondazione per Ricerca e la cura dei disturbi del sonno, Ollus, e ritiene che appunto non c'è proprio il corpo, il nostro cervello non entra in disagio appunto in questi cambiamenti di orario, e anzi si abitua facilmente, anche perché il nostro corpo ormai è abituato a momenti repentini, cioè noi siamo quotidianamente portati a velocizzare le nostre azioni e le nostre azioni quotidiane appunto, quindi i cambiamenti quindi di orario, questo è il passaggio dall'ora solare all'ora legale e viceversa, quindi diventa soltanto uno dei piccoli cambiamenti dei mutamenti individuali e anche collettivi a cui siamo spesso soggetti, e quindi questo il nostro cervello, il nostro corpo ci si abituerà facilmente a questi cambiamenti in tempo di uno o due orette massimo, e anche perché dobbiamo pensare, soprattutto per quanto riguarda l'ora legale, abbiamo 60 minuti in più per fare qualcosa, quindi di fare qualcosa, abbiamo altri 60 minuti di tempo per poter fare, quindi poter portare a termine la nostra giornata, e quindi questo è l'aspetto positivo dell'ora legale, mentre l'aspetto positivo dell'ora solare è che si dorme un'ora in più, quindi per chi è amante del sonno, del lungo sonno, quindi c'è questi effetti positivi che non dobbiamo pensare solo al fatto che perdiamo ore di sonno, ma il nostro corpo ci si abituerà spesso, quindi subito, al cambiamento repentino di orario. E quindi dobbiamo ricordarci, quindi giorno 30 è marzo, quindi è di notte, perché loro dicono soprattutto alle 3 di notte di cambiare l'orario, così non ci sono grandi disagi durante la giornata, quindi dobbiamo portare una lancetta quindi del nostro orologio un'ora in avanti, quindi ricordatelo, nonché ricordate l'appuntamento sempre il 30 e il 31 mattina, quindi dalle 11:15 in poi con Mezzogiorno in Famiglia, saranno momenti di gioco, di divertimento tra due comuni, e noi parteciperemo con contro, ci batteremo contro De Senzano del Garda, quindi incrociamo le dita e augurateci buona fortuna, e siete anche presenti, appunto a Piazza Duomo dalle 9 in poi domani. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. A 36, 36, 36 serata. Momo era invincibile ed il subwoofer che sembrava esplodere. Stivali da cowboy un po' da renegade, renegade, renegade. Il mio DAC, un paio d'ore d'autonomia massima. I 501 a vita altissima. Ogni giornata sembrava bellissima, unica, mitica. E Milano era più vicina, perché adesso c'era posto anche per noi. Anche se ad andarci si capiva che proprio non c'entrava. Sono volati via in un attimo, ricordi ed emozioni che riaffiorano, però sempre memorie poi rimangono, dormono, dormono. E non c'è niente da rinnegare, ciò che è stato è tutto giusto così. Però adesso bisogna andare, che di strada ce n'è ancora. Sempre noi CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitch like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't get pushed. I'm on the floor, floor, I love to dance. So give me more, more, till I can't stand. Get on the floor, floor, like it's your last chance. If you want more, more. time. Starships were meant to fly. Questa era Nicki Minaj con Starship a CRM Happy Wake Up. E ricordo per chi volesse intraprendere la carriera dello speaker o un DJ o un animatore, quindi vuole stare qui al posto mio e divertirsi tantissimo in maniera abbastanza spensierata, quindi con la bellissima musica di CRM Happy Radio, lo può fare partecipando al terzo corso di formazione radiofonica organizzato appunto dalla nostra radio. E potete inviare per la partecipazione, il corso è gratuito e potete inviare quindi il vostro curriculum a formazione@crmhappyradio.it e la durata del corso va dall'8 aprile al 30 aprile 2013, sono 8 ore settimanali, quindi 2 ore al giorno e c'è un numero di partecipanti, quindi massimo di 6. Poi appunto i requisiti sono il diploma di scuola superiore e poi alla fine del corso verrà dato un attestato di partecipazione, in più uno stage, la possibilità di fare uno stage di 4 settimane e quindi stare qui dietro al microfono, raccontarvela un poco e vedere appunto, sentire sulle proprie mani, sulla propria voce appunto l'emozione di fare radio, di fare diventare appunto un DJ e anche un animatore. Diverse appunto sono le materie appunto che vengono studiate durante questo corso. Appunto abbiamo elementi di fonia, tecniche di mixaggio, tecniche di speakeraggio, conduzione radiofonica, conduzione giornalistica e tecniche anche di animazione. Poi abbiamo anche elementi di storia della musica e anche quindi compreso la storia della radio, quindi della nostra radio di CRM Happy Radio, eppure anche studio appunto di software di regia automatica, quindi magari chi non è interessato solo a diventare speaker ma gli piace soprattutto quindi stare nella parte tecnica, quindi nella parte regia, appunto può partecipare a questo corso, può essere anche interessato a studiare appunto questi elementi di regia automatica, audio editing e così via. Quindi iscrivetevi, siate numerosi, perché è una bellissima esperienza. Io che l'ho fatta l'anno scorso possono dirlo anche con me, i colleghi l'hanno frequentato, è stato anche divertente, emozionante e riscopri una parte di te che magari non sapevi. Ecco, io l'ho riscoperta e quindi ne sono felice. Posso anche esprimere questa mia spensieratezza e questa comunque mia gioia con allegria con voi. Ecco, vi rallegro un po' le vostre mattinate qualora voi lo vogliate, ma non solo io, ma lo fa anche la nostra musica, la musica di CRM Happy Radio, la musica divertente e spensierata che vi faccio sentire ogni lunedì e venerdì mattina. E questa è Florida Whistlet. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. And I'm betting you love freak mode. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell them paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow.